Siamo in collegamento con Federica Manzitti, una delle fondatrici di Radio Riace International. Ciao Federica. Ciao, bentrovati. Per prima cosa ti chiederei appunto di presentarci questo progetto. Come nasce e in che cosa consiste? È un progetto nato praticamente all'indomani del provvedimento di arresto per Mimmo Lucano. Fondamentalmente, anzi, la prima scintilla è nata in Francia da un gruppo di artisti, di intellettuali, di giornalisti francesi, molti dei quali circuitano intorno a Fonorgia Nova, una casa di produzione, una casa editrice legata al mondo della creazione sonora, quindi per intenderci radiodocumentari, trasmissioni radiofoniche e quant'altro, che avuta la notizia appunto dell'arresto di Mimmo Lucano hanno voluto spendersi in qualche modo, e quindi è cominciato un tam-tam dalla Francia all'Italia, dall'Italia alla Germania, e in un giro di pochissimi giorni abbiamo raccolto l'adesione di tanti altri artisti, cittadini, persone sensibili a queste tematiche in giro per l'Europa, e abbiamo creato una piattaforma digitale, in sostanza una web radio che trasmette in streaming adesso tutte le sere dalle 18 alle 24 e poi in podcast anche per scaricarsi qualcosa di quello che è andato in onda nelle giornate precedenti, con dei contributi tutti sul tema dell'accoglienza e del modello positivo anche che Riace rappresenta. Il progetto è nato 10 giorni fa, se non mi sbaglio. Come sta andando finora con gli ascoltatori e le ascoltatrici, nel senso, che tipo di pubblico raggiungete? Allora sì, è nato 10 giorni fa, ha avuto il primo momento di messa in onda, è nato 15 giorni fa, quindi in 5 giorni l'abbiamo costruito e poi appunto 10 giorni fa la prima messa in onda. Beh, è un pubblico di persone sensibili, o per lavoro o per ragioni politiche o personali, sensibili a queste tematiche e anche, come dire, con una certa predisposizione all'ascolto, perché se voi andrete, spero che lo facciate presto, ad ascoltarvi quello che arriva da Radio Riace Internazionale, International che si voglia dire, beh, non è una cosa comune, almeno non per gli ascoltatori italiani, perché si tratta, sì, in alcuni casi di interviste. Per esempio il messaggio inaugurale è stato quello di Jacques Lang, che è l'ex ministro della cultura francese, è stato ministro con Mitterrand, che ha rilasciato, è stato il primo a rilasciare un'intervista, un patrocinio a questa iniziativa. Poi abbiamo sentito più volte Rosaria Lucano, che è la cugina di Mimmo, che da tempo vive a Parigi e che ci racconta quasi ogni giorno, insomma, non solo quello che accade a suo cugino e a Riace, ma anche è un racconto affettuoso quasi, quindi vediamo anche l'aspetto umano, se ce n'era bisogno, della grande umanità di Lucano. Però gran parte di quello che viene trasmesso da Radio Riace Internazionale appartiene al mondo della creazione sonora, quindi musica, testimoniale, però sempre rielaborate con un intervento di estetica anche sonora, radiodocumentari che sono stati registrati in giro per il mondo e che raccontano molto spesso le migrazioni e qualche volta le migrazioni riuscite, cioè le integrazioni, i luoghi della convivenza. E quindi il nostro pubblico è un pubblico che ha voglia di ascoltare queste cose. In termini di numeri vi posso dire che in 10 giorni abbiamo già circa 3.000 persone che ci seguono, che ci hanno ascoltato e che ci ascoltano, e quindi tutto sommato ci consideriamo abbastanza soddisfatti. E invece per quanto riguarda i contributi, voi avete aperto una call anche per chi volesse contribuire alla radio, giusto? Assolutamente sì, ci teniamo tantissimo. Io poi sono il referente per l'Italia, quindi tengo particolarmente ai contributi italiani. C'è una mail, la mail è Radio Riace International, internazionale, quindi senza la E finale, @gmail.com, dove si possono mandare testi, ma preferibilmente invece contributi audio in MP3 o in WAV. Possono essere, che ne so, anche diari, considerazioni, messaggi vocali registrati con WhatsApp, pure letture di libri, di articoli di giornale, insomma qualsiasi tipo di contributo, sia che si arrivi da un professionista della radio e della comunicazione audio, sia che arrivi da assolutamente una persona che con questo queste cose non ha nessuna confidenza, ma che vuole contribuire. E i contributi che stanno arrivando sono prevalentemente per ora dal nord Europa, che ha più confidenza con questo genere di comunicazione, e quindi tantissime cose vengono dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania, dalla Lituania, dalla Svezia, davvero da ogni angolo d'Europa. Tra l'altro ieri c'è stata una giornata particolare, abbiamo voluto celebrare gli 80 anni dalla messa in onda della Guerra dei Mondi di Orson Welles, che sicuramente tutti conoscete, quella trasmissione radiofonica che era uno scherzo, c'era una finta invasione degli alieni che aveva mandato nel panico nel 1938 4 milioni di americani, e noi l'abbiamo girata in Attacco Marziano, Ariace, e c'è stata, oltre alle trasmissioni da Parigi, da Londra, da Arles, da Berlino, c'è stato anche un collegamento con Goa in India, perché fin da laggiù c'è stato qualcuno che ha voluto contribuire a questa serata speciale. Ti volevo chiedere anche se, diciamo, dall'altra parte della barricata c'è stata qualche risposta, nel senso, per dire, Salvini si era opposto anche al fatto che Mimmo Lucano andasse in onda sulla Rai, per dire, quindi mi chiedevo se dalla parte invece, diciamo, di Salvini o della Le Pen in Francia c'è stata qualche risposta in senso contrario. Dalla Francia non vi so dire direttamente, dovrei chiedere alla parte francese di Radio Ariace Internazionale, non ne abbiamo parlato. So che in Italia, non direttamente Salvini, ma sicuramente alcuni dei suoi sostenitori hanno protestato con Radio 3, perché Radio 3 Mondo si è occupata di noi qualche giorno fa, e so che la redazione ha ricevuto diverse mail, segnalazioni di protesta. Questo per dire, insomma, come sia sensibile il tema nel nostro paese. Sì, certo lo è. Un'ultima domanda, invece, il rapporto proprio con la città di Riace, come sta andando e come si sviluppa? È tutto in divenire, noi siamo ansiosi di poter andare proprio fisicamente a conoscere Riace, i suoi abitanti e il suo sindaco attualmente sospeso. Siamo in collegamento, in contatto con i comitati che si occupano di Riace, del suo sostegno. Io sto raccogliendo anche testimonianze di persone che sono andate a Riace, magari non per vacanza o per altre ragioni, ma proprio per conoscere questa realtà. Ne sto incontrando diverse, perché diverse non solo in seguito alle manifestazioni di cui sicuramente avete dato conto anche voi, ma anche così autonomamente. Ci sono diverse persone che in questi mesi sono recate a Riace per conoscere questa realtà, e quindi spero di poterne dare conto presto dalle frequenze di Radio Riace Internazionale, che tra l'altro non abbiamo detto, è su una piattaforma che si chiama MIXLR, ma se voi su Google mettete Radio Riace Internazionale vi appare subito il link. Perfetto, io ti ringrazio molto e ti saluto. Grazie a voi.